attenzione al canale 10, Brecco. E avanti. Ciao Artalì, buonasera. Buonasera già. Cosa Artalì? Ho detto buonasera già. Aspetta un attimo che spengo il televisore, cioè il televisore è acceso. Ma strano, ma non si sente. E vabbè, ma lo sentivo io, mi dava fastidio, capito? Stavo facendo un progettino per il dipolo. Stavo facendo. Babà, già ideando stai? E ci vogliono tutte le misure, perché io pensavo che se aggiungevo quello che rimaneva del cavo che manca, risolvevo, invece no. Le misure sono diverse, le cariche hanno una misura diversa per allungare il dipolo, cioè l'antenna è più corta del normale, però ha le cariche. E siccome ho buscato quel tubo che mi serviva da 40, no, per fare le cariche, però mi servivano tutte le misure, adesso mi sto facendo questo progetto qua. Così gli metto due cariche e va bene così. E per quanti metri è questo dipolo? È di 40 metri. Quello che ho adesso è per i 20 solo, ma io lo voglio fare per i 40, capito? Eh beh, sui 40 c'è più gente anche. Fai bene. Perché siccome adesso con questo dei 20 ricevo basso, perché è anche basso lui il dipolo, no? Però adesso io gli inserisco le cariche e poi al limite lo porto su sopra l'antenna e lo metto in alto, perché ieri arrivavano, cazzo, ero in un'altra stazione, arrivavano sparati in 40 metri, capito? Ma anche qua il 27 li ho sentiti sparati, non si capiva se che lingua era, ma non era né spagnolo né francese né inglese, era una lingua strana, boh. E sono stati tedeschi. No, che il tedesco lo conosco, l'ho capito, non erano tedeschi, non una lingua, boh, che non ho mai sentito. Non erano né tedeschi né portoghesi, tutte le lingue che conosco, bene o male, lo so come parlano. Questi qua però, erano strani, non si capiva cosa dicevano. O russi saranno stati. Però intanto, hai visto quei due piloti, cavolo, che sono morti col Canadair? Fa un baccaggio che ha buso in fuga, te l'immagini? Il Canadair è difficile, perché una volta che scarichi l'acqua si impenna, allora rimane più di zero e quindi non è tanto facile da guidare. E ha urtato con là la montagna, ha urtato. Infatti. Il Canadair non è tanto facile. Ma quelli sono piloti che si hanno fatto il suo, capito? Li aveva già buttato di acqua 4-5 volte. Lo so. Mi è andata male, una manovra sbagliata e si è fregato. E infatti basta poco, un piccolo errore e sei fregato, ed è sempre l'errore umano che ti fotte. È da mettere in conto il fatto che uno possa sbagliare, no? È raro, ma non mesto, perseverare ed essere diabolico. Lui già non persevera più, poveraccio, perché è morto, quindi non ha tempo di perseverare. E infatti. Ma, vabbè. È tutto per uno che ha messo fuoco sicuramente, perché lì è una zona protetta e non si può manco entrare, quindi non è che sia una zona che può venire apposta il fuoco. E ci sono i bastardi che purtroppo mettono fuoco chissà per quale ragione, o pagati, o per questo o per quello. Ma cosa vuoi che ti dica? Hanno trovato anche gente che faceva, che lavorava nella forestale per 6 mesi, roba del genere, e metteva a fuoco per fare il rimboschimento, capito, per richiamarli. E anche quello c'è da contare, poi c'erano i pastori che secondo le loro credenze praticamente se mettevano fuoco usciva più rigogliosa l'erba, queste cose qua. E beh, purtroppo è un macello. Ma se il fuoco farà terra arsa, cosa esce più rigogliosa l'erba? E secca proprio tutto, fa diventare arsa la terra. Eppure loro, visto la cosa, cosa pensano? E mettevano fuoco e facevano l'anno, purtroppo, specialmente qua in Sardegna. Io ho visto interi territori, guarda, quando facevo il Corriere, bruciati, tutto bruciato, nella zona di Viti, in Chivimi, mamma mia. Natali, io ho visto il fuoco, una cosa che non ho mai visto, il fuoco attraversando la strada e andando dall'altra parte della campagna incendiando gli alberi, cioè camminava sulla strada, capito? Infatti, il fuoco è una brutta bestia. Andava da una parte all'altra, i pastori con i bidoni cercando di spegnerlo, con bidoni, con quel trattore che c'ha da fare per l'antincendio, no? C'ha la cosa dell'acqua, la botte. Era la strada di Alghero, ma era una giornata che c'era un medicato, ho detto io che ce ne andiamo verso Alghero, dai, così almeno c'è più fresco lì. Cazzo, è stata facendo, sono dovuto passare con la macchina correndo, che anche era un buco che passava nella strada. Ho rischiato, sono passato correndo, meno male non mi si è attaccato il buco. Infatti. Volavano i rami incendiati, andavano da una parte all'altra della strada e poi incendiavano l'altra parte. Cazzo, una cosa mai vista. Gli alberi con fuoco, proprio tutti infuocati. Sta lì. Oh. Ciao Gian, l'hai saputo di Filippo? Sì, sì. L'hanno messo, siccome abbiamo la chat noi, arrivano le notifiche. Porca puttana, vabbè. No, oh, iaia, ci sono da 5 anni, che se in 15 anni ce l'ha mangiato, porca puttana ladra. Quella malattia aveva, no? Lì all'improvviso, una visita ha fatto, 15 giorni. Yes, poveraccio. Ma è giovane, 55 anni, grande radioamatore, bravissimo, veramente, un grande ragazzo, eravamo molto amici. Io ho saputo oggi, adesso mangio, sono i funerali. E anche io l'ho saputo poco fa, perché ho acceso il computer poco fa. Io me ne avevo parlato, stavo facendo pure le antenne, ci hanno mandato il messaggio. E voglio che ti faccio, così è la vita purtroppo. Dobbiamo prenderla come è. Bravo, dai, io mi sto preparando, devo andare al portatore, ci abbiamo una pizzata. Subito a comunque, ma devo andare, riprendi Gianni. Via, ciao Cla. Io penso di non conoscerlo, questo Filippo, non c'ho presente chi sia. E abitava a Porotolo, un animatore, 10-0 QQA. Filippo Contu, noto Mocio Vilera. No, non lo conosco, no, sicuramente non lo conosco, o magari poi di vista se vedo la foto lo conosco anche. E c'è, no, va bene, se guardi c'è, no, già abbastanza conosciuto. Natalino, già se lo ricordo, lui qualche volta sicuramente l'ha visto. Va bene ragazzi, dai, buon proseguo, ci sentiamo alle prossimine, vai Natalì. Ecco, buona pizzata allora, alla faccia mia. Ma adesso me la ordino anch'io e me le faccio arrivare le pizze. Così impari. Natalì, non è giocata, ma organizzate, mio fratello, a Porto Torre, capito, siamo un gruppo, una decina, quindicina, sono per andare, la verità, sono stanco morto, sono stamattina, trabaccando, facendo, poi abbiamo anche pranzato, quindi sono stanco, però ci vado, pazienza, va bene ragazzi, saluto, riprendi già. Ciao, ciao, buon divertimento. Io se voglio provare a Porto Torre se andare in quella pizzeria La Ruccia, mi hanno detto che è molto buona la pizza. E a Porto Torre se ci intendi, La Ruccia è a cassa sarei a Portottore, se il padrone di Portottore, se lei era una mia ex collega. All'entrata di Portottore, scra, di fronte, quasi di fronte a Cida, c'era Ruggia. No, noi siamo andati a Sassari qua con Franco Binario, la moglie eccetera, lì a Santa Maria diciamo, là. Capito, lì dove c'è McDonald's, ed è veramente molto molto buono, il servizio è grandissimo, enorme, non ti lasciano mai senza niente, aspettando, facendo, molto molto buono, proprio pizza alla napoletana. Veramente buona, però non siamo andati, siamo andati qua a Sassari, ma penso che sia lo stesso. Non so neanche dove ha prenotato mio fratello, magari siamo lì. E comunque c'è anche a Porto Torres. E niente, sono andato anch'io, ma la traversa che c'è dopo è la piazzetta, in fondo c'è una scalinata, si sale, e ci avevano dato anche alla fine la pizza col dolce. Sì, sì, sì, a noi ci hanno dato l'antipasto, autogratis, sputi dal nostro sorbetto, alla fine, dei dolcetti, un bel servizio, la verità, siamo stati benissimo. Però ti ripeto, a Sassari, a Porto c'è, non lo so, vediamo, andremo anche lì, se capita, vediamo un po' com'è la situazione. Vabbè, vado a sistemarmi, già alle 8:30 devo lasciare Porto, sono già alle 7:20. Ci sentiamo raga, buon questo, vai Natale. Ciao, la buon proseguimento, divertiti, ci sentiamo alle prossime, grazie per le quattro chiacchiere. Ciao, ciao a tutti e due. Ciao, ciao. E niente, Natale, lì è buona la pizza, siamo andati una volta tutti quanti in grefa con i figli, c'era anche Lady. C'era anche lì e siamo andati tutti quanti in grefa e l'abbiamo mangiata lì la pizza, molto buona, e poi ti danno l'antipasto come ha detto Claudio, poi alla fine ti danno la pizza dolce, capito? Col dolce. Mica. È un bel servizio, poi ti chiedono se sei ciliaco, se vuoi la pizza per ciliaci, se vuoi la pizza tipo con farina integrale, ce la fanno in tutte le maniere. Infatti, solo che per i ciliaci ci vuole il forno, un altro forno a parte. Lo so, ciliaci hanno, sì, ma penso che ce l'abbiano, o hanno qualche padella per metterla, la pizza per separare dalle altre cose, ma poi col fuoco non penso che dia problemi, no? E lo so, solitamente è la padella, la pentola che si cambia, c'è solo per loro. E infatti sto cercando una moletta grande, ma fanguarla, che devo fare un cerchio. Una persona che conosciamo tutti e due, quella lì c'ha sia il diabete che la celiachia, quello che fa male per la celiachia fa male per il diabete, è un casino. Purtroppo, anche due fa. Beh, comunque quella è una grande pizzeria, non so se sia rimasta sempre il solito posto dove c'è il McDonald's, ma io mi ricordo che sono andato, c'è una traversa dopo la piazzetta sulla destra, svolti lì e vai in fondo e c'è una scalinata, si sale su. Niente, alla sede la propagazione. Via. E oggi è sabato, nelle altre bande Tobiano di Gontes, a me gli hanno inviato, niente, li dai. No, ma in 27 ho sempre le altre bande. No, nelle altre bande, in tutte le altre bande ci sono questi contest, solo che è una cosa che dura poco, due minuti e via, cosa? Non è che stanno a tirarla a lunga, no, più ne fai e meglio è di collegamenti. Infatti ti dicono il segnale questo e quell'altro, ma due cazzate dicono, poi già lo so, li ho seguiti anch'io il contest, quando avevo un altro apparecchio li seguivo. E anche io ho fatto diplomi lo stesso, però non è che mi vadano tanto i contest. È meglio fare QSO, proprio di ex, di lusso. Ho i di ex, ho discorsi normali, da. Io ascolto molto gli italiani quando si mettono a fare salotto, sono bei discorsi, solo che qua più di Santiago 9 non arrivano perché ho il dipolo basso, è corto, capito? Non è per quella banda lì praticamente. Invece col dipolo suo, vedela se arriva la furti. Eh beh, già lo grido, un'altra minestra. Quando c'avevo quell'antenna là in campagna, che ce l'ho tuttora, solo che cavolo, è troppo lunga, dove te la metti? È lunga e complessa, perché non è un dipolo normale, è un'antenna multibanda quella che ho io. In 80 metri arrivavano brutti al massimo, sto dicendo, un'antenna favolosa. Ma quella lunga che vi è attaccata all'albero? Sì, all'albero e al palo. Erano attaccati a due alberi e in mezzo a un palo. Poi c'era la scaletta, era alimentata alla fine della scaletta, era un'antenna favolosa qua. Già me la ricordo io, mi ricordo anche dov'era. Infatti. A fianco alla casetta, passavo davanti alla casetta degli attrezzi. Infatti, era proprio lì, è sopra un palo di 10 metri. Purtroppo, se stavi lì ti saresti fatta beffa. Ah, quello è poco ma sicuro, lì avevo tutto, tutte le frequenze, tutto avevo. E quell'antenna poi che è piazzata con la Mantova non ce l'ha manco molti anni, perché io me lo ricordo, era venuto Giuseppe a darti una mano, mi pare che era parato dentro la verrice. Eia, c'era la buona anima del babbo di Bombolo, Bombolino. Kappa. E 2 mesi aveva quell'antenna quando me ne sono andato. Io nella via Valada, Natali. E cosa mi la farò a fare? Sino che non la vuoi piazzano, che è troppo bizzante chi s'antenna, già. E almeno il limite te l'avresti venduta, te l'avresti fatta in soldi, c'è la nuova, per la sala fra ziga in chibi. Infatti chissà in che condizioni sarà, va. Quelle antenne, sai cosa c'aveva? Il difetto che si frasigava dove si attacca il PL, lì, quella piastra che c'è. Quella lì l'avevo messa nuova anche io, l'avevo scesa, con Fabrizio l'avevamo fatta tutta nuova, ma perfetta, tutta. Si è cambiato anche il cavo interno, gliel'ha messo più grosso, era una bomba da cui l'avevo fatta. Fabrizio è un artista facendo quelle cose. Bravissimo. Sì, l'aveva fatta un bel bene, guarda che c'era stazionare, come l'ho piazzata era 1-1, senza toccare nulla. Ognuno l'arte sua, aspetta un attimo che stavo suonando. Via. Chi è avanti? Sì che ti sento, avanti. Chi è? Un attimo. Inoghiso. Ho ritirato in rete per funzionare in alto. Hai ritirato, bravo. Vabbè, via da te. Comunque stai scendo un po' sattolo, cosa sei attaccato? E sto rivendendo tutto la radio adesso. Stai? Sto rivendendo tutto la radio. Riprendendo o rivendendo? Riprendendo tutto la radio. E che radio c'hai? Ho preso con il reddito tutto qua la città. E da dove stai modulando? Guerra Chiesa. Dove? Guerra Chiesa. Non ho capito. Avanti Natali, ci sei? Già. Aspetta che sto parlando con mia moglie. Dammi il cerino. Già. Non stai uscendo quasi di radio, stai uscendo molto sacro, stacca il lineare perché sennò non ti capisco. Ora mi senti? Adesso sei più chiaro. Sei più basso di segnale ma sei più chiaro. Devo potenziare il reddito. Qui è da te. Grazie a con me. Assai ti dati d'asino. 720 euro. Per non far niente già va bene. Guarda, mi sono prodotto la radio, adesso lo ripeto. Ho detto, che radio c'hai? Ho preso uno stocco di Gala Città. E quanto li stai vendendo? 500 euro. E allora già ne vendi? Niente, un turbo. Cosa c'hai? Il Galaxy Turbo? Sì. Ah, a me non mi interessa il turbo, mi interessa quello normale. Quello normale 250. Un bel. 200 si può vendere normale, se va, se è messo bene. Ma hanno ottimi bigliai che sono difettosi di alimentazione con gli apparecchi, Gianni. No, a me non mi ha mai difettato l'attari di... E poi quello lì non è un problema, basta rifare l'alimentazione dall'interno, si può fare anche con lo switching, oppure se lo metti esterno l'alimentazione è fatto lui. Sono difettosi di alimentazione, poi c'hanno un altro difetto al coso, al modulatore. Apparecchi ne hai, no Gabigli, noi quindi nulla già. E infatti, c'è la Bidellucci, il Galassi. Voi cosa c'hai? Ma voi li volete sempre gratis? No, gratis no, ma nemmeno ci si vola dai gas. Ho capito, ma costano così. Per 200 euro quanti ne vuoi te ne trovo? Anche per 150. Anche 500 ci sono. Cazzo, qualcuno l'ha messo 500. Anche per 150 ce n'è. Bello come il mio. Io l'ho veduto anche di meno, 100 euro. Perché c'è tutto, do a 50 euro e poi te lo prendo, dai. E vabbè già, tu 100 più ce ne ha messo altri 100 sopra, 200. Ma io l'ho venduto a posto, 150 euro più 20 euro di spedizione. No, ha speso 20 euro per aggiustarlo, 20 euro, me l'ha detto lui. E allora è fraulaggio, a me mi ha detto 20 euro di manovra e 50 euro di pezzi. Ah, forse non erano compresi i pezzi, vabbè. Comunque in ogni caso quell'apparecchio era nuovo, non c'era un grafico. E vabbè, c'è la Bidellucci, tanto già ne ho gli apparecchi, c'è il Ruiz che va benissimo. E il mio invece è stato graffiato, tutto messo male. Quando l'ho venduto si è spaventato quello che gli avevo detto, ma ha detto, ma sei sicuro che 160 euro ti devo mandare? Sì, mi devi mandare 170 euro. Portatelo via. Mi era nuovo, ma nuovo è vero, bello. Nuovo, mai avuto una riparazione, mai. L'unica cazzata quella dello Smitter, ma la polizia ha subito intercettato il problema, la seconda volta le ha messo la distanza più grande e a posto. Ne ho venduto 170 euro, io l'avevo pagato più o meno così, quindi a mano me la fotte venuta di speculare, ma 200 euro, 250 euro, mi pare una cosa esagerata, a meno che non sia un Colt, se no il prezzo suo è quello, 200 euro, quanto ne vuoi ce ne? Va bene, dai, chi è questo che non ho capito? Nemmeno io lo so, avanti l'amico con nominativo. Scusate, ti saluto, sto facendo roba. Vabbè, dai, ciao, ci sentiamo, non ho capito chi sei comunque. Rambo la vendetta. Rambo, Orice Bidone. Su Cinco deve essere, dall'accento. Se no è tutto Antonio Grosso. Grosso. Di sorso sì. E a quell'altro grosso. Arrivederci. Ho sentito che stava parlando francese. Cosa ha detto già? Che di sorso. Salutami la fontana allora. Della Billella. Già te la accompagno. Come? Ma ti accompagno. Mi accompagni a me? No, già vado da solo io. E lei va che ha fottito tutti i sushi che hanno i bidu. A me non mi accompagna mai nessuno. A me sì, le signorine. No. Meglio solo che male accompagnato, vero Lantarini? Abbiamo andato sia a lezione ieri. Eia, abbiamo dovuto cambiare sede perché c'era una lezione per quegli infermieri e allora ce ne siamo andati da un'altra parte. Ci avevamo a disposizione una sala reunion e l'abbiamo fatta lì, solo i semici di un bettaglio. Infatti sono andati a mangiarsi la pizza e invece io me ne sono durato subito a casa, che dovevo pigliarmi medicine, mi dovevo fare l'iniezione, mangiare, insomma. Me ne sono un missile fuggendo. Quando è così cosa fai? La cosa ti buona da in giro, se c'hai appuntamento con le medicine non c'è niente da fare. È un casino, vabbè. Ti ha pagato. No, a me mi ha mandato anche un messaggio, quello che l'ho venduto già. Veramente contento, anche ho venduto un amplificatore da poco, per le radio, tutti tranquilli e sereni. Tutti contenti, contenti, questo Galaxy è contentissimo, anzi, mi ha fatto un'osservazione, tu immaginati di cosa si è accorto, che io non me ne ero mai accorto, mai. Hai visto che c'è il cambio, la commutazione, no? AM, LCB, USB, FM. La lucetta rossa della M non si accendeva. Cazzo, io non me ne sono mai accorto, CB o come sono. E dove funzionava tutto quanto bene? Tutto. Anche le lucette. E potevi dirlo a me, cazzo, è andata a quel prezzo, chi non l'ha detto a me? Ehi già, lascia perdere, non si afferma. No, io proprio non sono mai accorto, se no mi costava niente mettere il letto. Ce l'avevo aperto Fabrizio, figurati. Ma non sono manco accorto. Infatti quando mi ha dato un messaggio, ho detto, ti devo fare un'osservazione, ho detto, mamma mia, ora c'è. Il LED della M non si accende. Ehi, cazzo, io ho detto, minchia, cazzo, guarda, rimandamela indietro che se lo cambio te la siamo esaurita. No, non l'ho già sostituito io, un LED piccolo, piccolo, piccolo, vabbè, cambiatelo. Se vuoi ti faccio un bonifico di 5 euro. Ma. Gaffa, gaffa. Vabbè, io poi. Adesso sto pensando ad altro, su cui c'è la disabilità comunque, su quella grande che... E certo, assistenza per fare l'aggiornamento, se la c'è da tenere 3 mesi. Natale! Ma Natale non si è farato. Io. Va bene, va bene. Gappa, gappa. Io se ti ricordi, se te l'ho detto, prenditela e mettiti la pianzonello e ti facevi cambiare la resistenza dello Smith. Capito? Invece tu no, vado ad aggiustare, voglio il posto, qui, là. Invece è così, è successo così. Capito? È capitato questo. E gliel'ho mandata subito immediatamente. Ho fatto un video, ho detto mandamela immediatamente. Ho messo anche una scatola e gliel'ho mandata. Adesso c'ho il gatto. Pole position c'è una persona. Soldi non me ne servono. Devo fare uno scambio. Se va bene lo scambio, fate anche il gatto. Almeno me lo tolgo a mettere i coglioni. Penso che non lo dava nessuno, visto. vabbè, là. Si cambiano le idee anche. No, claro, tu a quello lì gliel'hai dato con lo smitter che funzionava, scusa, e io ti ho detto, se tu mi metti a posto lo smitter te lo prendo io, te l'ho anche detto. Gliel'hai messo a posto e gliel'hai dato un asso. Ma non c'era il tempo, capito? Capita tutto così all'improvviso. Sono travelato. Io stavo andando così, invece poi è capitato un blitz. Mettiamoli, ho messo e ho avuto dei contatti, l'ho dato. No, già, è sempre dentro l'armadio del Cavedio, l'ho tolto da poco, tutto pulito, acceso, funzionante al 100%, però non è una radio che io posso usare perché non c'ho posto. Io oramai mi sono dedicato alla banda amatoriale, ho tolto di mezzo tutto, ho tenuto solo una linea Kenwood e basta, completa, tutta completa. Capito? Tutta completa e poi ho la linea HF della Jesu e l'820H. Ehi, ora è fuori a casino, vattene. Porca puttana, vuoi toccare le carte? Ascolta, il DS-180 tu l'hai mai avuto? Il DS-180? Io l'ho avuto. E va bene. No, per la M no. Ah no? Cazzo ne vai, è un ibrido così anni vai. Ci è andato a prendere il radio di 40 anni fa con lo stadio finale a valvole e il sistema transistorizzato. Ci riesci a farlo usare col preaccordo, c'è il preselettore, devi accordare in una banda, poi non c'è accordatore, non c'è niente. Cazzo è bello. No, mi sembrava bellino vedendolo, dai. No, lo stavano vendendo, però io non è che l'ho già abbigliato, lo stavo guardando. E toccavo lo 180, non ho mai sentito nominare da Claudio, deve essere non ne ha mai avuto di questo. No, in pochi l'hanno avuto, io ce l'ho foto dimostrabile. DS-180, DS-130, sono tutti radio che sono uscite prima del 140, prima del C80, prima del 430, prima di tutto. C'è la serie 1, che è il 130, il 180, poi c'è la serie 6 che ho avuto, la serie 7, la serie 8, 820, 830, capito? E sono tutte prima dell'850, di tutte quelle serie lì, le ho avute tutte, tutte da là alla svezza, tutte le serie, vecchie e nuove. Il 127, il 128, Abbott, poi c'è la Giulia, la 1003. Sì, sì, sì, c'è anche Piaggio. Ma c'è qua c'è Giannini che vuole aggiungere io. Vabbè, chi era Savvidio? Ma era Savvidio, Savvidio, vabbè che sono nell'altra cupola, cazzo. Ciao sì. Ciao, ciao, dai che sto facendo un capo per la radio. Ma sei in macchina? No. No, no, sono nel bunker, piccolo mio. Ah, ho capito, dai. Nella sala di... come si chiama? Di emigrazione, dai. dove si può riflettere. Sì, nella sala mingitura. Oh, yeah. E lì è, che antenna hai messo lì, Tino? È una Grand Prix. Piccola piccola, vabbè, dai, tanto ci serve solo per ascoltare, giusto qualche cazzata così. Sì, già arrivi bene. Ecco, dai, ci sentiamo che devo fare questo capo. Concorrix, dai, avanti, Clau. Atti, non ti basta ancora quello che abbiamo fatto, ancora da fare c'hai. Gabriele sta facendo la doccia, quindi devo poter correggiare. Mi ha chiamato anche Claudio poco fa, però ormai ero già salito, cioè ero già sceso qua in campagna, perché volevo andare a vederlo, ma non fa, Claudio, capito? Non fa perché ci vuole una scheda anche per collegare tutte le cose. Ehi, ehi, ehi, anche io sto temporeggiando. Alle 8 e mezza poi si è pronto, la missione ci ha lavato, tutto, sono seduto qua, poi vediamo, vabbè. Ok, sì, già ci aggiorniamo, fammi sapere per lunedì se hai bisogno di una mano, chiamami, ok? Sì, già, va bene, ciao, ciao, rimango con Rix, riprendi già, ciao. Ciao Tino, ciao, grazie per i saluti. Avanti Natalici, sì. Oh, Natalina, già sentato, poi ma niente, che ore sono? Le 7 quasi 10, le 7-8 minuti. E allora sta mangiando Natalino. Comunque guarda, se vuoi vedere dove la roccia è di fronte al rifornitore di Cida, non c'è da sbagliare, appena prima. E vedi tutte le sedie fuori, tutto quanto, e lì l'hanno fatta lì. Ma a destra scendendo la Sassari? Sì, a destra scendendo la Sassari, di fronte al rifornitore. Sì, sì, sì, ma mi pare che lì c'era un'altra pizzeria prima. Boh, che sappia io, c'era un'officina di carrozzeria prima, o qualche cosa del genere, un carrozziere mi pare fuori. Oh, qualcosa mi ricordo, no, sto confondendo io, più giù. All'ingresso di Porto Torre, vicino ai granai della pizzeria. Sì, via Cavita, dove abita mia sorella. Ah, lì abita tua sorella. Sì, dove c'era la pizzeria Il Gobbo, che adesso si chiama in un'altra maniera, lì, quella traversa lì. Ehi, non si chiama Bodale, come si chiama? Non lo so adesso come si chiama, però prima si chiamava, quando c'era Fabio, si chiamava pizzeria Il Gobbo. Ehi, ehi, pizzeria La Cipria si chiama. vabbè, fa giù Barreto. Dai, certo, grazie fino a fatto. Per carità, quando vuoi cercartela. No, vabbè. E questo Roberto del Giudice invece di Porto Torres che è morto? Del Giudice? Del Giudice sono quelli del Bar Sport. Sì, ma non sono Mauro Sergio, li conosco. Forse questo è il cugino, 42-43 anni. Ex tossico era. No, allora non lo conosco. Sì, dite, io neanche lo conosco, ho visto la foto, no, non mi dice niente, però come Roberto del Giudice, se non è cugino loro, del Giudice a Porto Torres sono pochi. Penso che sia parente loro, perché loro sono del Giudice, quelli del Bar Sport. Io lo conosco, i figli di Luciano. KK, invece c'era scuola con me, quindi già non lo so. Vabbè. Ecco già questi ricchi. Bisogna godersi la vita qua. Ne stanno morendo di persone che conosco, magari dai. Dove ti giri, dicono è morto quello, è morto l'altro, tutti giovani. Te l'ho detto, io ci sto bene di salute, non me la frutti proprio, manco per le balle. Me la godo, adesso per Natale ci facciamo un viaggetto, me la frutti nuda, tanto guarda a questo punto. Non c'è più da che parte girarti veramente, ma dimmi Luca, Filippo, ma ce la siamo visti. Mi aveva promesso che veniva a farmi l'impianto nella dipendenza che devo finire, ma dimmi tu che com'è la vita, porca puttana. Lo so, qua io quando ho detto Filippo pensavo che era Calippo, sinceramente. No, questo è Filippo Conto, un ragazzo in gamba, molto in gamba, grande lavoratore, bravissimo radioamatore, costruiva anche le radio, piaceva l'autocostruzione proprio delle radio, capito? Ha fatto un vicetrasmettitore HF fatto da lui, bravo, molto bravo. Aveva una ditta tipo quella di cosa? Di idraulica, condizionamento, pompe di calore, capito? Molto bravo anche nel suo lavoro, 55 anni. Ma cos'era? Un po' robusto, tarchiato rimane? Sì, tarchiato un po' così come me, ma i capelli e la moccio videla ci aveva. Ho capito che è. Veniva a farci l'impianto a noi, al Tourist Market. Molti supermercati, banche, così lavorava, sì, e i polatori conosciutici. Oggi buttare un moccio videla, capelli tutti ricci, lunghi, faria sempre binghinoso, invece è una bravissima persona. Non lo sai che vogliono sempre le persone brave, dici Mari rimani? Vabbè, fa allora io ci, come mi hanno detto, anche perché conoscevo molto bene, ce l'ho su WhatsApp adesso, devo cancellare tutto. Purtroppo è così la vita. E a me da poco mi hanno telefonato che un amico mio si è buttato dalla finestra, chissà cosa gli ha preso, era un ragazzo forte, non capisco cosa gli abbia preso. Lì è questione di cervello, non ti funziona, non ti funziona, ma quando ci sono queste malattie di mezzo è un casino, ma purtroppo è così. E lo ce vuoi a fare, ma pazienza, è andata così, mi piace tantissimo. Ci vediamo domani, sarà il funerale, non so, ma non è che domani, ma certo domani, non è domenica. E magari glielo fanno lo stesso, un po' che strano, però di domenica, non ho mai visto funerale di domenica. KK. No, vabbè, ci sarà sulla Nuova Sardegna, poi no. Vabbè, ho mandato la coppia del necrologio sul sito della Diamantori, così c'è scritto Baltano, comunque vabbè, vediamo domani com'è. Non so se tu l'hai visto su WhatsApp quel frate che era il radioamatore che è morto. Frate, ma di Sassari? No, non è di Sassari, è continentale. Dice che praticamente gliel'avevano data a copertura perché soffriva di depressione questo frate, e il psicologo gli aveva consigliato di diventare radioamatore di modo che lui potesse interagire con le persone, capito? Se non vedo nome attivo mai l'ho collegato, non lo so. Qua di preti c'era solo Don Feno, radioamatore, e poi un altro, mi pare, della provincia di Cagliari, che sono tutti e due morti. Sì, ma dice che forse è l'unico in Italia, che c'era, che era rimasto come prete o frate, che faceva il radioamatore. E vabbè, comunque dice che aveva questa passione, che poi l'ha aumentato e si era attrezzato bene tutto quanto. Ed è morto, hanno messo le condoglianze su Facebook e c'era anche la fotografia. Non so già se non lo vedo, non ho guardato niente, ho visto solo quello di Filippo e Io ci ho mettato l'arrivatore grazie proprio a Don Filippo, IS0DNB. perché era attaccato a mamma, quindi di poli li avevo messi, li avevo fatti mettere io. E la sera andavo a vedere a lui come parlava. C'era una linea della Sommer, che è una linea Drake, infatti sono radio che poi ho avuto anch'io. Capito? Don Giuliano Fino, mi ha attaccato a casa di mamma. E ancora, vabbè, la casa è lì. Ci abita la sorella di lui. Ma Don Fino dov'era? A questo risorto? No, il parroco della Consolata, una vita. Ah, la Consolata, ho capito. Sì, questo Don Fino non ho sentito nominare, però non sapevo chi era. Don Fino, il parroco della Consolata, no, una vita, sì. Da una vita, ha sposato mamma in seconda nozze, figurati tu, da una vita, abitava proprio attaccato, il portone attaccato a noi e il suo terrazzo dava con il nostro. E siccome c'aveva di fuori del 40 agli 80, gli avevo fatto passare i due bracci nel mio terrazzo. E lui diceva sempre, vieni la sera che ti insegno a trasmettere il GACB, eh. C'avevo il baracchino a casa di mamma, era il GACB. E andavo da lui la sera. Ah, mi appassionava tantissimo queste linee così valvolari di vecchia stampo, di vecchia cosa. E che poi sono passate a me. C'è anche la foto su WhatsApp, qua c'è la linea 1 e la linea 3, che sono proprio quelle che aveva lui. Capito? Me le aveva regalate. E niente, andavo da lui e da dottore Burroni a imparare a fare. Poi mi ero iscritto alla sezione riportatore, cioè quando era vivo Mischi, e quindi poi vabbè, abbiamo fatto tutto il percorso che c'era da fare. No, Mischi, ho capito. Abitava nel palazzo vicino alla pasticceria, in via Petronia. Sì, bravo, sopra la pasticceria di Ledda. Eia, che si è chiusa, vabbè, non c'è più. Però c'è la pasticceria, sì, ho capito chi è. Sì, quello era il presidente, l'uomo componibile. Quello ci aveva più chiodi lui addosso che una ferramenta. Davvero, mi cazzo di rivi. Una volta abbiamo visto una razza, ma così, non perché ce l'ha fatta vivere, era appoggiata a qualcosa. Avevamo questa riunione, aveva appena ritirato tutte queste razze, tutte queste cose, tutte le appoggiate. Questo cos'è? Uno schema di radio, cioè, ma io ho componenti. Tu cazzo, dici, ho giocato 3 giorni dell'anche, non vedi i giorni che va. Cazzo, ci sono stati 300 chiodi, cazzo. E aveva avuto incidente? Non lo so se è nato così, c'è avuto incidente, boh, ma mi sembra di sì. Era un funzionario dell'Eri che mi... Cazzo, era il braccio detto del dottor Ciabatti, mi... E abitava il porto di Scaramella. Ehi, esatto, sopra Scaramella proprio sembra che abiti. Capito, era un funzionario della CIR, lui era CIR allora, quando il direttore era il dottor Ciabatti, Rovelli, tutta i saienti, capito? Lui dinava via, beh, erano cazzo l'uomo componibile, giravamo quella Land Rover beige, ti ricordi? Eia, e poi c'era Menghini, l'hai conosciuto? Ehi, cazzo, Menghini è stato il mio direttore dell'officina turistana. Marco, il figlio, era amico mio. Oh, bravissimo, ma laureato si è poi. Boh, l'ho perso di vista, facevamo servizio ambulanza insieme e siamo diventati amici, lì, capito? L'ho perso di vista, poi non l'ho più visto, poi c'era imbarcato sopra perché lui aveva fatto il nautico, sopra una di quelle imbarcazioni che puliscono il mare, di quelle draghe. Sì, con cosa lavorava, con Corombino, l'altro, come cazzo si chiama, ricordo, che abita lo Scoglio Lungo lì, già lo so, abitava via Principe Piemonte, ingegner Menghini, all'angolo, lì, via Principe Piemonte, quella cos'è, via Ancicola già. Sì, via Ancicola, sì. Praticamente tu vedi il traliccio che c'è per l'antenna del televisore, tutto in acciaio l'aveva fatto. Sì, bravissimo. Ingegner Menghini, cazzo, brava risveta. Sì, poi conosceva mamma perché il figlio studiava a notte, con mamma era bidella. Quindi conosceva molto bene, bravissima persona. È un uomo di testa, veramente, faceva funzionare la testa, perché quando le chiedevi qualcosa te la spiegava e ti diceva veramente qual era il lavoro che dovevi fare. Era un pezzo grosso lì, vero? Sì, era un pezzo grosso, l'ingegnere progettista, direttore lavori era. Allora ti parlo, l'officina turistana c'era 300 operai, meno, era buccia di gioco. Non è cappa. Sì, non esiste, non c'è più, è morto, quindi. Sì, c'è lo so che è morto, sì, grazie. Lo so, mi ha detto mamma, lo so, bravissimo, sì, grazie, molto bravo. E il figlio lo stesso, mamma diceva che era molto bravo a scuola, tu non lo so se ha continuato. Sì, Marco, aveva un po' di fissazioni, non toccava le mani perché per i microbi, se tu andavi a toccare la mano te la toglieva, faceva anche rimanere male. Ti hanno visto un paio di volte, infatti io lo usavo da un giorno, non li toccavo mai, ma invece il padre era molto, molto più umano. Poi una volta è successo che in ambulanza praticamente c'era questo ferito e cose, lo stavano medicando e cose, ed è saltato il sangue vicino all'occhio a lui. E praticamente ci hanno avvisato che questo tipo era sieropositivo, se qualcuno avesse avuto contatti e cose era sieropositivo. E tra 2-6 mesi in paranoia facendosi visite e questo e quell'altro. Sì. Lo so perché... diciamo che il padre non era come lui, però ci diceva molte volte state attenti quando vi tagliate, abbiate cura, usate tutte le precauzioni, capito? Era sempre, perché era responsabile anche della sicurezza, di tutto, proprio comandava tutto lui, capito? Eia. E anche l'antenna è particolare, no? Il traliccio dell'antenna che ha fatto per l'antenna del televisore è alto in acciaio, cavolo, lì vabbè è bassa la zona e loro stanno in quella specie di villetta che c'è, villetta e da. E il traliccio è fatto in acciaio, ce n'è uno lì e uno via delle vigne che però è a tubo, non è a traliccio, è tubo d'acciaio per l'antenna. No, quello che c'è lui è a traliccetto proprio, quello ce l'ha fatto costruire giù all'officina turistana.